Alzandosi ai Wan si disprezzò. «Vieni a casa, Bungee!» disse. Si chinò, cinse con le braccia il floscio corpo dell'ebro, lo aiutò ad alzarsi e uscì in strada con lui. Chiamò un rickshaw, vi caricò Bungee che ormai dormiva e a piedi lo accompagnò fino all'ingresso della casa del signor Muraki. Il vecchio portiere era al suo posto e affidandogli Bungee, Ai Wan gli raccomandò di accompagnarlo alla sua stanza facendo in modo che nessuno lo vedesse. Il vecchio annuì e Ai Wan proseguì verso casa. Era sconvolto. Che cosa accadeva realmente nel suo paese? Quante cose ignorava? Qual era la verità? Era stato così preso dall'idea del suo matrimonio che aveva semplicemente escluso che ci fosse guerra per poter sposare Tama, ma egli era cinese. Mentre saliva i gradini di pietra che dalla strada conducevano a casa sua, Tama gli corse incontro con giro tra le braccia. Appariva meravigliosamente fresca e graziosa, coi capelli pettinati con cura e la pelle soave come la buccia dell'albicocca. «Abbiamo appena finito di fare il bagno, Giro e io», annunciò, «e abbiamo indossato i nostri nuovi kimono. Voglio dire che quello di Giro è tutto nuovo e al mio ho rinnovato le maniche. E sai, ho comperato dei bellissimi crisantemi. È stato qui da me un uomo che si diceva inviato da te, da un signore cinese», così disse. Rise con Giro. Ai Wan sorrise. «Sei stanco», esclamò Tama. «Molto stanco», ammise Ai Wan. «No, non le avrebbe riferito quello che aveva detto Bungee. Non era cosa per lei. Tama non conosceva il Bungee che aveva parlato. Non avrebbe potuto conoscerlo. E poi le cose non erano molto chiare nemmeno per lui. Siedi», lo pregò Tama. Egli sedette. Tama gli cavò le scarpe, poi le calze, e gli strofinò i piedi con le mani forti e lisce. Il suo solo tocco portava calma e conforto. «Ora dammi la giacca, eccoti un kimono. Il tuo bagno è pronto», mormorò. «Penso io a tutto, tu bada soltanto a riposare. Giro starà buonino e non ti disturberà». Giro, seduto sul pavimento, guardava la scena con tanto d'occhi. Ai Wan lasciò che Tama facesse tutto, adducendo come scusa la sua stanchezza. Tutte le sue facoltà erano concentrate nell'assillante pensiero di quello che gli aveva detto Bungee: eserciti disfatti, bombe, donne rapite. Egli non sapeva nulla. Ma di che si trattava? Forse di rappresaglie? Un'improvvisa impazienza di tornare in Cina lo prese. Voleva vedere, sapere. Si ricordò di episodi isolati, indici dell'antico odio, gente che sputacchiava per via i giapponesi, chiamandoli nani e scimmie, gli scontri con gli ufficiali giapponesi nelle province settentrionali, e Lan che ripeteva senza stancarsi: «E quando la rivoluzione sarà finita dovremo combattere i giapponesi». Ma la rivoluzione non era mai venuta, e lui, Ai Wan, ne aveva abbandonata fin l'idea come di cosa chimerica. Finalmente, calmato da un bagno caldo nella profonda vasca di legno, pensò che doveva andare in Cina a vedere. Si sarebbe trattenuto magari pochi giorni soltanto, lì per lì la cosa gli parve decisa. Uscì dal bagno, si asciugò la carne morbida e calda e persino la sua tensione di spirito si allentò. Non sarebbe stato difficile rimpatriare, doveva rimpatriare e accertarsi di quanto accadeva. Durante la cena, mentre Tama si protendeva verso di lui col busto nell'atto di riempirgli il piatto, egli la guardò. «Credo che dovrò andare in Cina per un certo tempo», disse. Lei depose il piatto. «Ti accompagneremo!» esclamò allegra. «Giro e io, così vedremo la tua casa». Egli scosse il capo. «No, vado solo», disse. «Non sarebbe prudente che veniste anche voi». «Ma perché?» domandò stupita lei. Si era preso Giro sulle ginocchia e lo imboccava coi bastoncini per il riso. «Sai bene, non molti mesi fa ci sono stati dei combattimenti a Shanghai», le spiegò con prudenza. «Non mi fido troppo delle disposizioni d'animo della mia gente per i giapponesi». «Ma i cinesi simpatizzano per noi», disse con ardore Tama. «Te lo assicuro, Yuan, in tutti i giornali si legge che il popolino cinese si riversa per le vie ad applaudire i nostri soldati. È stato così oppresso dai suoi funzionari che...» «Yuan, c'è sui giornali, io li leggo tutti i giorni, più di quanto non faccia tu». Egli non aveva nulla da obiettare. Tama leggeva tanto che, diceva, quando lui rientrava aveva un monte di cose da dirgli. E così non mi potrà rimproverare di essere una moglie giapponese stupida e all'antica. Comunque, credilo, è meglio che tu non ci venga in Cina, le disse con fermezza. Gli accadeva di rado di ordinare in quel modo. Lei lo guardò attraverso il tavolo, poi con Giro in braccio gli si avvicinò e gli mise il pargolo sulle ginocchia. Giro, disse al piccolo, di' a tuo padre quel che ti ho detto oggi. Giro, intimidito, guardava ora l'uno ora l'altra dei suoi genitori. Di', la mamma dice che in primavera, se gli dèi permettono, ben inteso, Aiwan, io so bene che non esistono dèi, ma mi piace parlare di loro qualche volta, in primavera avrò un fratellino. Tama! Esclamò Aiwan. Lei confermò con cenni del capo. Sì, e non devi lasciarci ora, Aiwan. Se qualche cosa capita, ti assicuro che ho un certo presentimento, una superstizione. So che sono una sciocca, oh, ma non faccio che guardare quel mare, augurandomi che non si frapponga mai fra noi due. Eppure vuole frapporsi, io lo sento, e se tu mi lasci ora, temo che guasterà il bambino che ho in me, intristirà in me e morrà. Egli la guardò perplesso. Aspetta fino a che si possa andare tutti insieme, lo supplicò lei, non tu solo, mai senza di noi. Gli afferrò il braccio e glielo strinse forte. Giro, impaurito, cominciò a piangere. Shh, Giro, shh, mormorò Aiwan, cingendo la vita di Tama con un braccio. Dopotutto, che ragione c'era di partire? Che cosa avrebbe potuto fare? Anche ammettendo che gli fosse riuscito di sapere la verità, quello che era accaduto era accaduto. Tama ora anche lei piangeva col capo reclinato su una spalla. Silenzio, voi due, li rimproverò Aiwan. Si è mai visto un povero uomo così assediato dalla sua famiglia? Li strinse a sé nel medesimo abbraccio, intrecciò le dita dietro le loro spalle e li cullò un momento avanti e indietro con dolcezza. Ecco, li consolò. Asciugate le vostre lacrime, non parto. Tama, calmati, spaventi il bambino. Tama singhiozzava piano ora. E presto si calmò del tutto. Anche Giro si chetò. Aiwan continuò a cullarli dolcemente. Ecco il suo mondo, stretto fra le sue braccia. Il giorno seguente Bungee aveva già dimenticato tutto e non gli restò che la paura di aver detto di più del dovuto. Arrivò in ufficio tardi, pallido e stanco per quanto cercasse di essere asciutto come sempre. Aiwan lo vide varcare la porta, ma non volle parlare per primo e lo lasciò passare. Poi, sul mezzodì, uscito il personale per la colazione, Bungee riapparve, sostò alla porta e disse, non senza imbarazzo, tra ardito e vergognoso, «Ieri ero ubriaco, non è vero?» «Sì», rispose Iwan alzando gli occhi. «Ho parlato molto? Di che cosa ho parlato?» Savide che Bungee non ricordava e ne ebbe piacere, tanto meglio. Se il peso di quella confidenza era tolto loro di dosso. Hai detto che ti saresti sposato? Nient'altro? Infatti, mi sposerò secondo i vecchi sistemi. Passerò in rassegna molte fotografie di ragazze di età e famiglie appropriate, metterò il dito su una delle fotografie e dirò a mio padre: questa. Rise. Aiwan sorrise e non disse nulla. Fisserò quanto prima il giorno delle nozze, dichiarò Bungee. Sarà presto, non posso permettere che tuo figlio sia molto più avanti in fatto di età del mio. Ah, di pure figli, lo corresse Aiwan. Che? Un altro? Aiwan annuì col capo. Brava Tama, esclamò Bungee. Ah, le moga si comportano ancora bene, non è vero? Splendidamente. Maschio, eh? Così preannuncia Tama, rispose Aiwan. Crede di poterne essere certa. Ah, allora lo è, ribatté Bungee. Almeno il nascituro dovrà provare con documenti autentici che la madre ha torto in fatto di sesso. Bah, io sceglierò una donna meno energica. Io per me sono contento, rispose Aiwan. Bungee lo salutò con un cenno del capo e se ne andò. Aiwan, rimasto solo, rifletté un momento. Gli faceva un immenso piacere pensare che Bungee non ricordasse più quello che aveva detto. Aveva intravisto per un momento come oltre un sipario alzato che cosa si nascondeva nella memoria di Bungee. Sapeva che se lui avesse avuto coscienza di quel che faceva non avrebbe mai alzato il sipario e lui dal canto suo non gli avrebbe mai ricordato la sua confessione. Ma le cose non sarebbero mai più state quelle di un tempo, ora che Aiwan sapeva. Qualche cosa di diverso c'era anche in lui. Per esempio, da ieri aveva cessato di desiderare una figlia. Voleva soltanto figli maschi ora. Tamà quella mattina gli aveva detto: "Sento che la creatura che porto in me è un maschio. Quando sarà arrivato, collocheremo sulla casa due carpe di carta per celebrare la festa dei figli." Bene, aveva detto lui. E i figli un giorno avrebbero seguito il padre, ma le figlie dovevano essere lasciate indietro. La nascita del secondogenito Ganjiro, la festa dei figli, il terremoto furono altrettanti avvenimenti che si confusero in uno solo nel suo spirito. Accaddero a metà primavera, dopo le nozze di Bungi, strane nozze celebrate alla svelta e senza cerimonie, secondo un'usanza giapponese alla quale Iwan non riusciva ad assuefarsi. Era questa una delle tante differenze fra il suo paese e il Giappone. Al suo paese le cerimonie nuziali duravano giornate, mentre qui erano sbrigate alla svelta. Lo stesso Bungi si comportò come se fosse un'inezia, e la piccola Setsu Hajima, l'eletta, somigliava, dietro la maschera dei lineamenti dipinti, ai milioni di altre piccole giapponesine sue pari. Una volta sposato, Bungi non parlò più di lei. Pochi giorni dopo fu come se la sposa fosse sempre appartenuta alla famiglia Muraki. Tutti dimenticarono che una volta non c'era e ora che c'era, la sua presenza era come ignorata. Un mese dopo nacque Ganjiro. Venne al mondo sul mezzodì, nel modo più spiccio e tranquillo, senza che Iwan ne sapesse niente. La mattina, si era sul finire di aprile, aveva salutato Tama e Jiro ed era andato in ufficio dopo un'occhiata ai ciliegi fioriti del giardino. Le strade erano ancora bagnate da una pioggia improvvisa e il cielo era ideale, color azzurro pallido, dietro immense nuvole bianche torreggianti sul mare. In tutti i giardini gli alberi verzicavano, la gente per via aveva un'aria lieta e soddisfatta, l'aria era mite e umida. In quella vita del popolo c'era una profonda dolcezza. Aiwan l'avvertiva e ne faceva gran conto. La gente si amava e lo dimostrava con scambievoli cortesie. Aiwan, camminando nel sole di aprile, pensò che in quelle strade non aveva mai visto una faccia di vecchio scontenta o ragazzi strepitanti sotto le busse. L'amava quel popolo, di buona e anche di cattiva voglia, si sentiva adesso più affine e anche in esso più solo. Bungi, dopo il matrimonio con Setsu, gli era più vicino e insieme più lontano. Il giorno del matrimonio, Bungi si era ubriacato, ma poi aveva del tutto smesso di bere. Nessuno ora lo vedeva più alterato dal vino e certo pontificava maritalmente sulla piccola e semplice Setsu, che non osava quasi sedersi in sua presenza. In quelle giornate nuziali, Bungi si era lasciato andare a rumorose confidenze sulla politica estera e in specie sulla politica del Giappone in Cina, dove, a sentir lui, i comunisti rialzavano la testa. Aiwan, cenando la sera prima in casa di Bungi con Tama, ne aveva avute le orecchie rintronate. «Presto o tardi dovremmo mettere loro la museruola», aveva dichiarato Bungi. Aiwan aveva imparato a non rispondere. A che pro, controbattere? Non credeva a quello che diceva il cognato. Uomini come suo padre erano i veri padroni della Cina e odiavano i comunisti. E poi, non era forse stata annunciata a 10 riprese la disfatta dei comunisti cinesi ad opera del governo giapponese? Bungi invecchiava con quei suoi pregiudizi. Aiwan non ci pensò più e quella mattina entrò nel suo ufficio come al solito. Aveva sperato che il nuovo anno gli avrebbe portato una promozione, almeno in fatto di stipendio, ma non era venuto nulla. Il vecchio Muraki, alla solita festa annuale del personale dell'azienda, aveva spiegato che di aumenti non era il caso di parlare, causa le nuove gravose tasse imposte per potenziare la difesa imperiale sul mare, in terra e nell'aria. Bastò che dicesse l'imperatore perché tutti si rassegnassero. Tutti meno Aiwan, che non sentiva alcun particolare obbligo nei confronti della sacra persona, né era portato per temperamento ad adorare chi che sia. Aveva lavorato fin quasi al termine dell'orario antimeridiano, occupato nell'inventario della merce ancora invenduta, quando comparve, tranquilla e pacifica, la stessa servetta che si era precipitata l'altra volta ad annunciargli la nascita di Giro. Ora Si era prima fermata a pettinarsi e a indossare un nuovo kimono e calze pulite di cotone bianco. Che cosa c'è? Le domandò sorpreso Aiwan. Onorevole, ho l'incarico di annunciarvi la venuta di Ganjiro. Che cosa dici? Balzò in piedi e afferrò il cappello. È arrivato, grassissimo e robusto, comunicò raggiante la ragazza. Portava fortuna essere ambasciatrice di tanta novella. I due impiegati mostrarono per chiari segni il loro compiacimento. Proprio alla vigilia della festa dei figli, soggiunse ridendo la ragazza. Aiwan uscì subito. Solo fermandosi davanti alla porta di Bungee per cacciare il capo nell'ufficio e dire: È arrivato il mio secondo genito, io vado a casa. Pose un'orgogliosa cura nel dare l'annuncio con calma, come se gli nascesse un figlio ogni giorno. Che? Esclamò Bungee, ma Aiwan non rimase a dargli spiegazioni e si limitò allontanandosi a un cenno di conferma. Camminando senza lasciarsi vincere dalla fretta, porgeva orecchio ai discorsi della messaggera che lo seguiva tacchettando. È successo improvvisamente, come il sole e la pioggia di oggi. La signora stava benissimo, come voi, signore. E improvvisamente disse: Sento qualche cosa, incomincia. E io corsi per la levatrice e il bambino è nato quasi subito dopo il suo arrivo, forte e bello come pochi. La signora disse: Ah, se tutta la fatica di avere un bambino è qui, posso averne quanti altri ne voglio. Rideva, franca, per la prodezza della padrona di cui era fierissima. E invero, in casa nulla era mutato. L'odorino della colazione preparata da Tamà era allettante e Aiwan, annusandolo, si sentì fame. La colazione vi sarà servita quando vorrete, signore, disse la domestica e si inginocchiò per togliergli le scarpe. Fra mezz'ora, rispose Aiwan. Trovò Tamà coricata su un letto dietro un paravento con Ganjiro fra le braccia e Jiro evidentemente meravigliato al suo fianco. Aiwan non era ancora persuaso che il parto fosse avvenuto. Tamà non era nemmeno pallida. Sdraiata sul soffice materasso steso sulle stuoie, lo guardò con un'espressione di malizia negli occhi, come se tutto fosse stato uno scherzo. In un angolo in penombra, la levatrice si affrettava a far sparire qualcosa. Tamà, mormorò Aiwan. Eccoci tutti qua, rispose lei. È un maschio, come avevo predetto. Ah, commentò lui. Non sapeva che cosa dire. La nascita di Jiro era stata un evento memorabile, ma quest'altro era venuto al mondo senza che nessuno quasi se ne accorgesse. Con quel ritmo, in pochi anni la casa sarebbe stata piena. Ho voluto che tutto fosse finito prima della festa dei figli, disse con orgoglio Tamà. Tutto calcolato. Rispose Aiwan. Lei rise. Vai a far colazione, ti sarà servita una carpa. Pareva che lo sapessi, porterà fortuna. Rimango a casa nel pomeriggio? E che me ne farei di te? Domandò Tamà. Dormirò e Jiro giocherà nel giardino con la domestica. Ecco tutto. Così egli aveva consumato un'ottima colazione ed era poi tornato al lavoro. Tamà era una di quelle donne fortunate, pensava, che respirano e quasi traspirano salute ad ogni atto. Nulla per lei era troppo difficile e con tutto quel che già aveva da fare trovava il tempo di essere libera per quando lui rientrava a casa. Da molto tempo egli aveva cessato di meravigliarsi alle molte cose che la sapeva, era anzi arrivato ad abituarsi a pensare che Tamà sapesse tutto. Era ovvio che la casa dovesse sempre essere linda, che i fiori fossero quotidianamente rinnovati, che i cibi venissero preparati con consumata accuratezza e che la faccia di Giro fosse sempre pulita e felice. Qualunque cosa accadesse, non si sarebbe mai pentito di aver sposato Tamà. E se qualche volta si sentiva come preso da un oscuro e vago desiderio di un mondo di valori spirituali che non avevano nulla a che fare con lei, subito dominava il suo malcontento, non voleva disperdersi in sogni se Tamà era la realtà. Passarono la festa dei figli in casa, non essendo ancora Tamà, come si dice, levata di parto. Ganjiro aveva meno di un mese, ma Tamà fece ugualmente grandi preparativi. Quella mattina aveva collaborato ad innalzare sulla casa due grandi carpe di carta, due carpe simboliche, una nera e bianca con occhi dorati per Giro e un'altra più piccola rossa per Ganjiro. La giornata, quinta del quinto mese dell'anno, era bella e Giro gridava dalla gioia mentre il vento soffiava sulle carpe, un vento straordinario che veniva dal mare. Tamà aveva preso Jiro in braccio, ma Aiwan glielo aveva tolto, osservando che era troppo pesante per lei. Sollevalo tu allora affinché veda, aveva risposto Tamà. Ed erano rimasti a guardare le carpe al vento che incollava loro gli abiti addosso. Una casa con figli maschi, disse con orgoglio Tamà. Aiwan non rispose, ma gli venne improvvisamente da pensare che i suoi figli crescevano celebrando feste che egli da bambino non aveva mai conosciuto. Tamà le amava e le solennizzava con tutto lo slancio possibile. Aiwan ricordava la sua gioia a Capodanno e alle solennità del drago e della primavera, feste cinesi che Jiro e il fratellino non avrebbero mai conosciute. Era la donna che dava il tono alla vita della casa. Dunque, Jiro, diceva Tama al primogenito, ricordati che la carpa indica maschio perché è un pesce che nuota controcorrente nelle fredde acque alpine. Fu in quell'istante che Aiwan vide o gli parve di vedere oscillare l'asta alla quale sventolavano le carpe. In quello stesso istante il vento, che per tutta la mattina aveva soffiato gagliardo, improvvisamente cadde. D'istinto guardarono entrambi in direzione del mare. E lo videro mutato, era cupo e gonfio, un rombo profondo e fievole veniva da qualche parte, non si distingueva bene se dal mare o dalle viscere della terra. Tamà! Esclamò spaventato Aiwan. Terremoto, rispose lei con voce fioca e tranquilla, pallidissima in faccia. Aiwan aveva imparato a non far caso ai tremori della terra. Un terremoto era una possibilità costante, ma di grandi non ne aveva mai visti. Qualche volta la notte era stato svegliato con Tamà da fremiti sotto il materasso, mentre dal soffitto si sfarinava su di loro un fine polverio e legni e travi scricchiolavano. Tamà si alzava, si vestiva e aspettava in vigile silenzio, mentre in tutta la città migliaia di altre persone facevano lo stesso, impotenti eppure pronte. Ma sempre la terra si era calmata. Oggi invece aveva soffiato quel forte vento. Tamà corse verso casa, ma la cameriera già ne usciva con Gangiro in braccio. Dalla casa, dietro di lei, provennero degli scricchiolii, seguiti da schianti. Nessun dubbio ora che l'asta delle carpe si fletteva per qualche cosa che non era il vento. La ragazza, senza una parola, gettò il bambino fra le braccia di Aiwan e tornò di corsa in casa. Tamà ne usciva in quel punto coi cassetti e scatole dove erano riposte le loro cose. E un attimo dopo la domestica usciva a sua volta con le braccia colme. Dove lascio i bambini? Domandò Aiwan con voce strozzata. Devo pure aiutarvi. Rimani con loro, gli ordinò calma Tamà. Aiwan non finiva di meravigliarsi per la calma delle due donne, le quali si comportavano come se ripetessero per l'ennesima volta atti e gesti tradizionali. In pochi rapidi viaggi avanti e indietro erano riuscite ad ammucchiare all'aperto buona parte delle loro robe, non molte in verità. Gli oggetti di maggior pregio, i migliori pannelli dipinti del bel vasellame, dono del vecchio Muraki, i gioielli donati da Aiwan a Tamà per le nozze, le sete che sua madre aveva mandato dalla Cina erano state affidate a uno speciale deposito in città costruito appositamente con sistemi antisismici. Dove dobbiamo andare? Domandò Aiwan a Tamà quando ella gli fu di nuovo al fianco e gli ebbe tolto di braccio il bambino più piccolo. Dove vuoi che andiamo? Domandò a sua volta lei con semplicità. Quando la terra trema non c'è scampo. Attesero, guardando il mare. Egli stringeva Jiro fortemente a sé, ma Jiro non piangeva, anche lui guardava le acque gonfie. Improvvisamente Tamà uscì con un gemito inorridito e si portò una mano sulla bocca. Il mare si era gonfiato all'orizzonte in una grandiosa onda. No, più che un'onda, era una marea, un enorme banco d'acqua che si stendeva attraverso la superficie dell'oceano. L'onda non aveva cresta, era là, semplicemente immensa e cupa, sollevata contro il cielo. Non può raggiungerci, mormorò Tamà. Sommergerà la città bassa. Rispose lui con la gola secca e stretta, ma non poté guardare altrove. La marea avanzava, restando in apparenza ferma, sempre più enorme e gonfia, ma in realtà correva velocissima verso la spiaggia, incorporando volumi sempre maggiori di acqua di mano in mano che avanzava. Laggiù, Laggiù, quasi sulla riva del mare, Tamai e Yuan vedevano gente precipitarsi fuori dalle case e arrampicarsi disperatamente su per i monti, non importa come, pur di sfuggire al mare. Arriva sempre in fretta, disse Tamà. Aiwan non aveva mai veduto Tamà così calma. Pareva che non respirasse più. Aveva paura. Non avrebbe potuto dirlo. Egli avrebbe voluto correre, fuggire, ma lei lo trattenne. Poi l'onda s'avventò sulla terra. Arrivò senza cresta e tale rimase fino all'istante in cui s'abbatté con un boato che fece tremare tutta l'isola. Si infranse ed esplose in una massa di spuma. Case e vie sparirono. Parve che tutto il mare si fosse abbattuto sull'abitato. Può arrivare fino alla casa di mio padre, disse a bassa voce Tamà. Guardarono. Più orribile del gran colpo di catapulta fu il successivo moto con cui la marea si ritirò aspirando verso il mare. Pareva, in un risucchio immane, case, gente, alberi, tutto quello che incontrava sul suo cammino, tutta l'isola sembrò franare nel mare. Aiwan gemette e nascose il volto contro la spalla di Giro. In quell'istante la terra gli tremò sotto i piedi, sentì rocce che rotolavano giù per il fianco della collina. Allungò le braccia verso Tamà e anche in quel momento sentì il corpo di lei, fermo e forte. La nostra roccia, disse, resisterà. Quelle là sono rocce friabili e sopra di noi ci sono campi, non rupi. Era vero. Sopra di loro il terreno si avvallava e dalla valletta sgorgava una piccola corrente. I contadini avevano sfruttato quella naturale disposizione del terreno, costruendo terrazze coltivate a riso su ambi i fianchi dell'avvallamento. Di nuovo la terra tremò e di nuovo Aiwan sentì l'angoscioso effetto di quel tremito sotto i piedi. L'onda ritorna, disse Tamà, ma questa volta sarà meno forte. Aiwan la sentì che s'abbatteva sulla terra, questa volta con un rombo meno potente, ma non alzò gli occhi. Giro gli si era aggrappato addosso, stringendogli le braccia attorno al capo, ma non piangeva. Il suo fratellino dormiva. Aiwan si ricordò di come Bungee aveva parlato del sonno dei giapponesi che nulla e nessuno svegliava, abituati come erano al rumore e al movimento sin dagli anni dell'infanzia, appesi ai dorsi materni. Seguì un suono sordo e slittante, poi un fragoroso schianto di legni che cadevano, misto a rumori di carte lacerate. Aiwan alzò gli occhi, quasi silenziosamente, sollevando poca polvere. La casa era crollata. Ma prima che gli potesse esprimere con un grido il suo sgomento, Tamà disse: è finita e noi siamo vivi. Volse la schiena alla casa crollata e solo allora sedette. Il mare, sparso di rottami, si calmava, ma risorgeva il vento. Aiwan sentì che di nuovo le gambe gli tremavano. Ho visto dei terremoti peggiori, disse Tamà. Si asciugò la faccia con una manica. Si scoprì il seno e cominciò ad allattare il piccino. Aiwan le si sedette accanto su una cassa e consentì che la cameriera gli togliesse Giro di braccio. Ora che tutto era finito, si sentì fradicio di sudore. È la cosa più terribile che io abbia mai visto, disse. Oh, ce ne sono di molto peggiori, ripeté lei. Egli la guardò. Tamà sedeva calma, come se la casa che amava non fosse ridotta a un cumulo di macerie dietro di lei. E ora che cosa faremo? Domandò dopo un momento a Iwan. Riposati un poco e poi vai a vedere se la casa di mio padre è colpita.